Alma redemptoris mater, quae pervia celi porta manes et stella maris. O Santa Madre del Redentore, porta che ci apre il cielo, stella del mare. Succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem. Soccori il tuo popolo vacillante, che anela a risorgere, tu che, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudave peccatorum miserere. Vergine prima e dopo il parto, tu che hai accolto il saluto dell'angelo, abbi pietà di noi peccatori. Risorgere il mondo, aiuta l'uomo a risorgere dal peccato. Sei pur tu la genitrice di Dio, sei ben tu che doni al mondo Dio fatto uomo.